ragazzi noi andrete punte ne peri pentre di meset e un lume ne già fanta omega vite gnana valegna già in amico di sette e mi che va e te gna vlak per ai bambi rante vicia vedere mai non li te me sasai pure a già. Skinner.